in primo piano. Buongiorno, prendo la linea per la rassegna stampa e dico che finalmente, dopo giorni in cui siamo stati un po' dominati da tutto ciò che ha accompagnato l'insediamento di Obama alla Casa Bianca, un po' un tema che dominava le pagine dei giornali, come era giusto che fosse, oggi invece abbiamo un ventaglio abbastanza ampio e quindi si passa un po' da un argomento all'altro e ce ne sono parecchi. Allora voglio cominciare da Avvenire. Da Avvenire, che porta in prima pagina, accanto naturalmente, anch'esso, insomma, Obama resta nelle prime pagine perché i suoi primi passi sono scrutati con attenzione e ne daremo conto. Però Avvenire ha in prima pagina la direttiva del ministro dell'interno Maroni ai prefetti, che contiene questa direttiva, nuove regole per le manifestazioni e mai più preghiere islamiche davanti alle chiese. Questo dopo il caso del Duomo di Milano, la preghiera islamica nella piazza del Duomo. Dice Maroni, fatti come quelli davanti al Duomo non devono più ripetersi. Lo porta in prima pagina Avvenire, ma anche molti altri giornali, per esempio il Quotidiano Nazionale, che raggruppa Il Giorno, il Carlino di Bologna e la Nazione di Firenze, ha una grande pagina con gli islamici in preghiera davanti al sagrato del Duomo, e il titolo di questa campeggia su questa grossa foto è Mai più, lo stop di Maroni dopo le preghiere e provocazioni di Milano e Bologna. La Stampa sceglie invece di aprire con una foto di Barack e Michelle Obama che ballano la sera dell'insediamento. Prima mossa di Obama è il Medio Oriente. Il presidente chiama i palestinesi, poi Olmert. Qui si sottolinea un punto che ritorna su vari giornali, cioè che la prima telefonata di Obama è stata ad Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, e un secondo tempo a Olmert, primo ministro israeliano. E naturalmente poi l'altra notizia, processi bloccati a Guantanamo, Guantanamo che sarà chiusa entro un anno, Casa Bianca, stipendi congelati. Il titolo principale della Stampa è sulla giustizia, frenata del Premier, le intercettazioni restano per i reati di corruzione come volevano gli alleati, le registrazioni dovranno avere tempi più stretti, tensione tra Forza Italia e Alleanza Nazionale, scricchiola alleanza nel PDL. L'altra notizia che la Stampa porta in prima pagina, come anche altri giornali, è revocato Villari, presidente della commissione di vigilanza, che è stata sciolta. Fini e Schifani, ormai è impossibile lavorare. Alla presidenza sarà designato Zavoli. Quindi si chiude questo lungo e controverso caso. Sulla giustizia, l'Opinione titola Tormentone giustizia, si rischia il pasticcio. Domani in Consiglio dei Ministri arriva solo il piano carceri, sciolto il nodo delle intercettazioni che verrebbe superato con un inasprimento dei controlli su funzionari e magistrati. Berlusconi nega disaccordi con la Lega, ma dice di voler esaminare il testo punto per punto per evitare sorprese in aula attraverso gli emendamenti. E intanto i penalisti mettono in guardia contro una deriva antigarantista allo scopo di accelerare i processi. Il Tempo sceglie di aprire con la sua campagna contro la decisione del Brasile di negare l'estradizione di Battisti. È un appello a cui aderiscono vari personaggi. Il Tempo annuncia oggi l'adesione di Brunetta e Bersani a questa campagna e si dà la notizia che potrebbe essere richiamato l'ambasciatore in Brasile per protestare contro la mancata estradizione. Su questo anche il Messaggero dedica al caso un servizio, un'intervista di cui darò conto in un secondo tempo. Il Sole 24 Ore ha una importante intervista con cui apre il giornale al presidente della Confindustria Emma Marcegaglia. L'intervista è siglata FDB e Ferruccio De Bortoli. Situazione grave, misure insufficienti, ora terapia d'urto. Più fondi per le imprese e gli ammortizzatori, subito la riforma delle pensioni, via le province. L'intervista è ampia, complessa e farà discutere, io credo, e ne darò conto nella seconda parte della rassegna. L'Unità sceglie invece una schema grafico per la sua prima pagina, il contatore, il conto macabro e triste delle morti sul lavoro. Ieri un lavoratore del porto di La Spezia è morto in un incidente e l'unità ricorda in prima pagina che siamo già a 60, dal 1 gennaio 60 morti sul lavoro. Il Riformista affaccia invece un altro tema che compare oggi sui giornali con insistenza ed è un tema secondo me di grande rilievo. Quanto costa Bossi? Questo è il grande titolo del Riformista. Tremonti non sa dare al Parlamento i conti del federalismo. Una mina per la finanza pubblica. Più che una legge, quella voluta dalla Lega è una scommessa. Il Partito Democratico prende le distanze, l'UDC voterà no. Angelo De Mattia scrive: è il momento peggiore per la riforma. E Stefano Cappellini, nel suo servizio, suo Riformista, scrive: non è dato sapere quanto costerà alle casse dello Stato la riforma federalista. L'impressione maturata in queste settimane di dibattito è che il federalismo sia una mina per la finanza pubblica, la cui esplosione potrebbe avere effetti devastanti sul bilancio dello Stato, è stata confermata ieri al massimo livello dal ministro dell'Economia Tremonti. Le variabili che devono essere conteggiate per formulare il calcolo sono un numero elevatissimo. Dunque niente cifre. Probabilmente Tremonti dice il vero, ma la sostanza resta agghiacciante. La riforma deve essere approvata a scatola chiusa, prendere o lasciare. Questo è un tema politico di grandissimo interesse, come ben si capisce. Il Foglio dedica la sua apertura a Obama, che riunisce il suo gabinetto di guerra e dà un anno di tempo a Guantanamo. Entro un anno la base di Guantanamo, il centro di Guantanamo, il supercarcere, sarà chiuso. Ma il Foglio ha anche un servizio interessante intitolato «Chi non festeggia?». Chi è che non festeggia Obama? 5 esperti ci spiegano che Obama non scalda i mercati finanziari perché i mercati non si sentono salvati. È una inchiesta che spiega perché la borsa è caduta il giorno dell'insediamento di Obama, anche se ieri va sottolineato invece Wall Street ha guadagnato parecchio, oltre il 4% ieri sera, quindi anche questo va tenuto conto. Comunque gli esperti interpellati sono Francesco Giavazzi, Giulio Sapelli, Roberto Menotti, Alberto Bisin e John Fund del Wall Street Journal. Libero, per la penna di Vittorio Feltri, ha un servizio sulle contestazioni che ieri alla Sapienza, all'Università di Roma, hanno colpito il Presidente della Camera, Fini. Gazzarra contro il Presidente della Camera, scrive Feltri, passano gli anni, 68 vive soltanto nei ricordi dei reduci, ma le cattive abitudini degli studenti resistono a ogni cambiamento politico e sociale. Certi giovani continuano ad andare in giro con la verità in tasca e ripetono gesta e gesti antichi, sempre gli stessi. Su questo stesso tema il Secolo d'Italia parla invece di contestatori isolati e scrive anzi che la visita di Fini ha in qualche modo risarcito il Papa della mancata visita di qualche tempo fa ed è stato sfatato il mito dell'università off limits, cioè soltanto terreno agibile da parte dei contestatori, quindi si tende a minimizzare questo episodio che pure c'è stato ieri ed è stato piuttosto inquietante, anche se limitato. E il Corriere della Sera apre con Obama, naturalmente, che comincia con Abu Mazen, come dicevo, la prima telefonata è stata al presidente palestinese. Ha un servizio in prima pagina di Lorenzo Cremonesi, che ha intervistato gli scudi umani, i cittadini di Gaza che Hamas usava come scudi contro le bombe israeliane, che naturalmente hanno provocato un aumento del numero dei civili caduti nei giorni dell'attacco israeliano a Gaza. Paolo Conti parla sul Corriere della Sera della commissione di vigilanza azzerata. E mentre Repubblica apre su Obama, primi passi per la pace. Timothy Garton Ash un commento su come sarà il futuro di Barack, C'è un reportage in prima pagina da Lampedusa tra i disperati sopravvissuti al mare, un reportage dell'inviato Francesco Viviani. E a questo punto naturalmente cito anche altri giornali, il Mattino che parla di intesa nel governo sulle intercettazioni, e Roberto Martinelli scrive un commento sul Mattino: una riforma a prova d'aula. Mentre Europa ha il suo commento dedicato a ciò che scricchiola dalla maggioranza di governo. Europa, ricordo, è il giornale del Partito Democratico insieme all'Unità. È così che cominciano le crisi, scrive Europa. Pieno clima elettorale, va in tilt il piano sulla giustizia e Berlusconi è in sofferenza. Le conseguenze di questa situazione, scrive Europa, le vediamo nello strapotere leghista, nella conseguente sofferenza di AN, Fini e Alemanno che cercano di pesare quanto Bossi vogliono dire progetto del PDL in crisi prima di nascere. Vogliono dire svuotamento del federalismo e conflittualità permanente. Vogliono dire Berlusconi in sofferenza e popolarità calante. Non è la crisi, certo che no, ma le crisi cominciano così. D'altra parte, la stessa Europa parla invece di un Partito Democratico che rischia il fallimento perché ci sono troppi ex che appartengono ad altre storie politiche. Citavo nella prima parte questa ampia intervista a Emma Marcegaglia di Ferruccio De Bortoli sul Sole 24 Ore di oggi, titolata "Situazione grave, misure insufficienti, ora terapia d'urto". L'intervista è molto ampia, tutto campo, è molto interessante e non mancherà di far discutere. Nelle pagine interne è titolata "Ultimissima chiamata per la CGIL", il riferimento è alla riforma del modello contrattuale. Aiuti all'auto, a indotto e meccanica e non solo alla Fiat. Difendo Malpensa ma esco da CAI. Leggo un brano di questa intervista che parte naturalmente dal calo della produzione industriale, da una recessione più dura del previsto, dal prodotto interno lordo che scende del 2%, dati solo di fatturato negativi, e quindi qual è il problema? Il problema è che si rischia di affrontare qui da noi l'inverno della recessione con un vestito troppo leggero. La politica economica è in mezzo al guado, da una parte la necessità del sostegno ai consumi e alle imprese, dall'altra la preoccupazione sacrosanta di mantenere il rigore sui conti pubblici. Diamo atto al governo di aver fatto scelte corrette nella giusta direzione, con la blindatura dei conti e la manovra finanziaria, ma ora il quadro è drammaticamente cambiato. Vogliamo guardare gli altri? Rispetto ai 73 miliardi di euro messi in campo dalla Germania per stimolare l'economia, ai 41 della Spagna, i 26 della Francia, i 24 del Regno Unito, i nostri 5 miliardi sono pochi. Chiede l'intervistatore De Bortoli, ma come si fa a trovare tutti questi fondi con un deficit che viaggia verso il 3,8, il debito che cresce? Tremonti non ha torto. Riconosco a Tremonti, dice la Marcegaglia, molti meriti, ma bisogna cambiare passo subito. Ci vuole coraggio, osare di più, varare un piano straordinario a sostegno degli ammortizzatori sociali, delle infrastrutture, degli investimenti. Dobbiamo anche rimodulare i fondi strutturali su queste tre priorità. Ma poiché abbiamo un debito pubblico eccessivo, è urgente fare quelle riforme sempre rinviate, come la riforma delle pensioni, l'abolizione delle province e la ripresa del progetto di liberalizzazione, specie nei servizi locali, di cui nessuno parla più. E l'altro punto importante dell'intervista è quello relativo al modello contrattuale. Chiede l'intervistatore a che punto siamo e risponde la Presidente della Confindustria che di un sistema di relazioni sindacali che sostenga il reddito dei lavoratori, aumenti la produttività, dia regole certe, affermi la cultura della condivisione, superando la logica del conflitto, è questo che abbiamo bisogno, è una priorità per tutti, non solo nostra. Non solo nostra. La novità importantissima è che tutte le associazioni di impresa, compreso auspicabilmente il pubblico impiego, convergono su un documento quadro che fissa per tutti i lavoratori le stesse condizioni di base. La crisi si è aggravata e dobbiamo trovare nuove convergenze. Non possiamo più perdere tempo. Gli altri sindacati stanno mostrando realismo e senso di responsabilità. Ultima chiamata per la CGIL, chiede De Bortoli. Risposta ultimissima. E se si trovasse un'intesa, si aprirebbe una nuova stagione, positiva. Per la prima volta dopo il 93 vi sarebbe un accordo generale a difesa di salari e produttività. Mi auguro che Epifani non guardi ad altri obiettivi come le elezioni europee. Allora, su questo tema, su questi temi, Liberazione invece attacca il Partito Democratico, attacca Veltroni, di cui vede delle aperture sui contratti, sulle pensioni, proprio nella intervista che è stata pubblicata ieri da Sole 24 Ore e di cui davo conto ieri. Liberazione attacca Veltroni, dice che si sposta troppo al centro, naturalmente, e il titolo del commento di Dino Greco, del direttore, è: il Partito Democratico lascia sola la CGIL. Il Messaggero ha un'intervista al giudice Santiapichi sul caso Battisti. Severino Santiapichi, famoso giudice dei processi di terrorismo, non usa mezzi termini e dice al Messaggero: è un intollerabile schiaffo all'Italia quello dato dal Brasile. Il governo infatti deve valutare un ricorso davanti alla Corte Suprema del Brasile e il ministro Frattini pensa di richiamare l'ambasciatore. Torniamo rapidamente sui temi legati naturalmente ai primi passi di Obama, con delle interviste su Repubblica. Viet Dinh, padre del Patriot Act, lo statuto antiterrore di Bush, intervistato da Carlo Bonini, si chiede: ma che ne faremo ora dei terroristi catturati se appunto si chiude la base? E Joseph Nye: dopo la forza e l'intelligenza, con Obama il potere cambia, ma non sarà un potere soft, saprà usare anche le armi. Questo dice l'intervistato di Repubblica. Mentre, venendo a casa nostra, sulla Stampa, Vittorio Emanuele Parsi parla di Obama e lo definisce un po' Lincoln e un po' Reagan, mentre Luca Ricolfi, riprendendo il tema di cui abbiamo parlato nella prima parte della rassegna, cioè delle difficoltà del federalismo, Luca Ricolfi titola il suo commento: rischi di flop, federalismo e rischi di flop. E vedremo alla fine del voto parlamentare, scrive Ricolfi, che tipo di legge uscirà, ma se, come è verosimile, non vi sarà traccia di anticorpi nel testo definitivo, il rischio di un flop potrebbe diventare davvero molto serio. Alla fine della fiera, cioè a fine legislatura, potremmo trovarci con più tasse, più spesa, più debito pubblico, più conflitti dentro la pubblica amministrazione, l'esatto contrario di ciò per cui i fattori del federalismo affermano di battersi. Bene, chiudo qui la mia rassegna.